Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera, The Piedmont Brothers Band, ovvero sia Marco Zanzi, da Varese passando per la North Carolina. È così, Marco? È così. Allora, grazie per l'invito, sono molto contento di essere qui da voi. Questa sera parleremo un po' del nostro progetto, del mio progetto, mio e di Ronald Martin, cantante e cantautore del North Carolina, e parleremo in particolare del nostro ultimo lavoro. Si chiama Tre. Tre, esattamente. Free, praticamente. Free. Qualcuno dice è il terzo album, l'album della consacrazione definitiva, Marco, è vero? È così? Non lo so, può essere. Può essere. No, non sono io che forse è il più indicato per dire questo. Certamente è un album che segna un pochettino, è un album di maturità, diciamo, nella nostra pur breve storia. Parliamo un momento della tua breve storia, non è proprio breve, interessante. Da dove è nata l'idea, Marco, di fare questo progetto? Il progetto è nato un po' casualmente intorno al 2006-2007, quando dopo parecchi anni di contatti con dei gruppi di ascolto importanti. Cerchiamo di capire anche ai nostri ascoltatori dove questi gruppi di ascolto, questo input da cui è partito, questo coinvolgimento praticamente. Il coinvolgimento parte dai comuni interessi che sono maturati nel corso della mia storia di amante della musica. Fin da ragazzo ho sempre amato molto la musica americana e in particolare la musica di un gruppo, dei Byrds. Esattamente, Byrds sono il chiave di volta di tutto. Esattamente, e sono un gruppo da cui poi, attraverso le sue varie diramazioni, i suoi membri che si sono poi così sparsi e hanno collaborato con tante altre persone. Comunque, da questo amore per questo tipo di musica che ho portato avanti negli anni, con l'avvento di internet, con l'avvento quindi della possibilità di avere contatti diretti con persone che sono anche molto lontane da noi, ho avuto la possibilità appunto di, partecipando in gruppi di discussione, così si chiamano, di news group su internet, di appassionati come me di questa musica, di conoscere tante persone e in particolare questo Ron Martin che è praticamente il fulcro assieme a te del progetto, che poi è diventato, in fondo io allora non lo sapevo ancora, ma è diventato un po' il fratello, l'altro fratello gemello, qualcuno il fratello scritto, gemello, il fratello gemello di madri diverse, per cui l'altro fratello piedemontano. Così si è sviluppato dapprima una collaborazione dal punto di vista così musicale, ma poi un'amicizia molto profonda, tanto profonda da diventare una fratellanza, che ci ha portato ad un incontro, ci ha portato a scambiarci le nostre idee musicali, mi ha portato a farmi ascoltare la sua musica e quindi alla decisione di mettere questa sua musica su disco, sì, come fare un progetto discografico, detto una volta su nastro. Sul nastro, una volta in questo caso va sugli hard disk. Esattamente, adesso nastro. È cambiato, sono cambiate le cose, però il concetto è sempre quello. Da questa partenza un po' casuale, ne è uscito un prodotto che in definitiva è venuto molto buono e soprattutto è stato riconosciuto come buono dai cosiddetti esperti del settore, che nel mio caso fanno riferimento a una persona in particolare, che è Raffaele Galli del Buscadero. Nome storico del Buscadero, storico conoscitore della musica berziana, storico conoscitore e, diciamo così, responsabile di questo mio, diciamo, percorso, di questa passione. Esattamente. Il fatto che Raffaele Galli abbia giudicato estremamente valido il nostro lavoro mi ha fatto capire che forse valeva la pena insistere su questa cosa. Il fatto che Ron fosse molto contento di questa cosa ci ha portato appunto a pensare a un nome, e il nome è stato scelto Piedmont Brothers, sì, Band, proprio per il fatto che noi siamo dei fratelli, che ambedue viviamo in zone piedemontane, quindi la North Carolina e la provincia di Varese si, esatto, assomigliano, perché io vivo ai piedi delle Prealpi, esatto, e degli Appalachi. Band perché, anche se all'inizio si chiamava Project, forse sarebbe più adatto, ma poi abbiamo pensato che un band fosse più facilmente comprensibile, quindi questo è un po' come è nato il progetto che poi si è sviluppato nel corso di questi anni, di questi tre dischi praticamente, due più uno dal vivo e poi un uno che è uscito e poi da poco, il terzo che è uscito da poco in studio, esattamente, in un modo così abbastanza naturale, abbastanza coinvolgendo sempre di più persone a noi vicine, persone meno vicine che però ci sono poi diventate vicine, e per nostra, con nostra grande, con mia grande soddisfazione, anche il coinvolgimento in questo, in questo album 3 di dei nostri, così, dei nostri, sì, di personaggi che fanno parte dei gruppi, di nostri gruppi di riferimento, sì, per cui cari ascoltatori, ho davanti i personaggi, poi ne citiamo uno per uno, chiaramente sono personaggi di grande valore, di grande conoscenza e soprattutto di grande amore per certa musica. Praticamente dai Birth tutto si avvince, si crea, si allarga praticamente. Esattamente. Ringraziamo Michele Tosoni in regia, anche lui ha iniziato il 2013 benissimo con Rockaway, e cominciamo ad aprire la nostra finestra come sempre facciamo. Presentiamo il primo pezzo che tu hai scelto da disco stavolta, e sì, dopo presenteremo i pezzi dal vivo. Cosa hai scelto da disco? Allora, il primo pezzo è un pezzo scritto da Ron, da Ronald Martin, sì, e si intitola I've Been Dreaming About You. È un pezzo abbastanza significativo rispetto al tipo di musica che a noi piace. È una musica che si rifà, in questo caso abbastanza decisamente, alla musica dei Birds. È molto accattivante, assolutamente. È un pezzo piuttosto accattivante, è un classico pezzo, come si potrebbe dire, Jingle Jangle. Esattamente, prende anche, immediatamente. Anche per la presenza dello strumento principe della musica dei Birds, che era la chitarra a 12 corde Rickenbacker. La famosa Rickenbacker. Che ha un suono molto particolare e caratteristico. Il pezzo è stato scritto da Ron Martin e è stato cantato insieme a Rick Roberts. Rick Roberts è uno degli ospiti del PBB3 e per chi di voi non conosce il buon Rick, Rick è stato colui che ha sostituito Grant Parsons nei Flying Burrito Brothers. Abbiamo già detto tutto. E quindi è stato colui che ha collaborato con Chris Hillman alla realizzazione del famoso album dei Flying Burrito Brothers, appunto, che è poi diventato per tutti quanti il 3. Esatto. E qui deriva, e qui appunto il discorso del 3, il discorso del 3 è dovuto anche questo. È certamente perché, essendo io un grande appassionato del passato, comunque, certo, anche se cerco di fare in modo che il passato non rimanga un qualche cosa di sterile e di ma comunque è un po' un rifarsi a questo, a questa cosa qua, cioè al fatto che uno dei nostri gruppi di riferimento, i Flying Burrito Brothers, Rick Roberts, che collabora con noi, abbiano creato questo album che poi si è chiamato 3. Il nostro era il terzo album da studio, quindi, certo, da qui l'idea di chiamarlo, e dobbiamo 3. Sottolineare Graham Parsons è stata una cometa, è andato via immediatamente, sì, purtroppo, per tante vicende. Sentiamo, certo, il pezzo allora. Things we used to do, I've been dreaming about you, about the times when we were two. Seems like a million years, through all those bitter tears, I thought that I might find a clue why I was never meant for you, or you for me. But now I see it'll never be. It'll never be, but I've been dreaming about you, about the love that we once knew. I've been dreaming about you, my love for you was always true. Seems like a million years, through all those bitter tears, I thought that I might find a clue. I was never meant for you, or you for me. But now I see it'll never be, it'll never be. I thought that I might have a clue why I was never. seems like a million years. Through all the bitter tears, I thought that I might have a clue why I was never meant for you, or you for me. But now I see it'll never be. Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, l'onda del rock. Marco mi ha detto una cosa molto bella mentre il pezzo andava. Larry Kenbeck, una volta non si usavano tanti effetti. Come si fa, come l'hai, come il suono, come l'hai fatto, come si dice, gestito? Perché visto che i suoni li hai fatti tutti te, e qui Ron canta e basta. Sì. Canta e scrive il pezzo. Esatto. Guarda, non ho dovuto inventare molto, nel senso che la Rickenbacker in questo caso è usata in modo estremamente semplice attraverso un amplificatore Vox usato nella sua conformazione clean, con una piccola compressione e un pochettino di delay, basta, non c'è dentro nient'altro, non c'è bisogno di particolari effetti per ottenere questo tipo di suono. Poi nell'impasto totale molto va l'orecchio, io ho questa musica nelle mie orecchie da tantissimi anni, l'ascolto tantissimo e quindi è un po' naturale per me cercare questo suono e ottenere questo suono, però in realtà non ho trovato molta difficoltà nel realizzare questo tipo di sonorità. Cari ascoltatori, quando Roger McGhee ha fatto l'accordo iniziale di Mr. Tambourine Man, che aveva bisogno di qualcosa, non aveva bisogno di niente, aveva solo il suo estro, e questo è il discorso. Certo. Non è così, ma... anche perché Roger McGhee veniva dal folk e lui suonava la 12 corde acustica. Il passaggio alla 12 corde elettrica è arrivato perché volevano fare un gruppo che assomigliasse un po' ai Beatles e quindi un gruppo elettrico, e lui aveva visto la Rickenbacker 12 corde usata nel film Hard Day's Night, sì, usata da George Harrison, e quindi ha visto la 12 corde, allora usava la 12 corde acustica nel suo gruppo folk e allora ha voluto inserire, però la usavano semplicemente dentro in un amplificatore, così. Adesso ci sono tanti sistemi, tante pedaliere, belle cose anche visivamente, certo, tanti effetti, però l'essenza è sempre quella. Sì, assolutamente sì, almeno per le sonorità che io voglio. Certo, che certo. Voglio. Quindi abbiamo sentito questa sonorità molto berziane, ma nel disco non ci sono solo i Birds. Innanzitutto c'è la vostra band, i vostri pezzi originali. Ci sono delle cover, però le cover fatte a vostra somiglianza, fatte da te, chiaramente, con gli altri musicisti. Certo. L'idea è partita tutta da te. Allora, sì, la suddivisione dei compiti nel progetto Piedmont è un po' così. Io e Ron, ultimamente, Ron di più, sono le persone che scrivono i pezzi con anche collaborazioni di altri musicisti della band, per cui in particolare in questo disco ci sono collaborazioni con Francesco Frugiuele, il nostro bassista, con Francesco De Chiara che suona il mandolino, i flauti e le cornamuse, e altri musicisti del gruppo che fanno parte del nucleo fondamentale della band. Italiani sono Franco Svanoni, batterista. Franco Svanoni ha suonato anche con Davide Van de Sfros. Poi abbiamo Annina Satta al violino. Abbiamo Stefano Zanrosso, che suona un po' di tutto, in realtà suona moltissimo in questo progetto le chitarre acustiche soliste. Poi abbiamo Manuel Corato alle tastiere. E una band nutrita, è una band nutrita, sì. Bella, nutrita. La vediamo in fotografia qua esattamente. In più a questi vanno aggiunti naturalmente, certo, Ronald Martin, e poi abbiamo il nostro bassista, secondo bassista del Colorado, Mike Gallivan, e in più la collaborazione di Doug Rohrer, che è anche il proprietario degli studios in North Carolina, nel quale vengono registrate tutte le parti di Ron e degli americani, ospiti americani, perché ci sono gli ospiti americani di, sì, grande valore, di grande, sì, importanza. Sì, in questo caso nel PBB3 abbiamo in particolare la presenza di Richie Furay. E come sei riuscito a, a ospitare il Ceffuri, uno dei miti di una certa generazione in questo musicale. Caso il contatto è arrivato dopo che lui comunque ci aveva ascoltato, sempre tramite internet, è arrivato dal fatto che Richie Furay abita in Colorado e quindi Mike ha avuto la possibilità di incontrarlo di persona e quindi di verificare di persona a quanto lui piacesse il nostro progetto, quanto era interessato al nostro progetto, e quindi siamo rimasti tutti molto sorpresi dal fatto che avesse accettato la proposta di fare qualche cosa con noi. E quindi questa è una cosa che... Quindi se lui ha accettato vuol dire che il progetto valeva. Evidentemente, sì. Se no, sicuramente non accettava. Credo proprio di sì. Toccare i miti è un po' difficile. Certamente, è molto anche perché in quel periodo, oltretutto, lui stavano progettando e quello che poi si è realizzato, la reunion dei Buffalo Springfield. Quindi grande gruppo. C'è anche da dire che appunto... E come ha fatto a riunire anche Neil Young, secondo te? Questo è un po' dura. Probabilmente diventando vecchio il buon Neil si è un pochettino... Si è un po' ammorbidito. Certamente, anche perché non bisogna dimenticarsi che Richie Furay ha scritto nei tempi dei Buffalo Sprint, tu forse ti ricorderai, ha scritto una canzone dedicata a Neil Young intitolata A Child's Claim to Fame. Vero, sì. A Child's Claim to Fame, cioè un ragazzo in cerca di fama. Questo. Quindi voglio dire, non era stato molto tenero il buon Richie Furay nei confronti di Neil Young, che ha ovviamente un carattere, sì, un suo bel caratterino. Un carattere a parte, un suo carattere. Ecco. Comunque, ecco, la presenza di Richie Furay chiaramente per me è un grande onore, anche perché Richie Furay è stato il membro fondatore forse del mio secondo gruppo preferito dopo i Birds, cioè i Poco sono un grande gruppo di country rock. C'era anche il fratello di Young, Rusty Young, ed è il gruppo, veramente il gruppo di country rock per me migliore di tutti. Anche questo gruppo non ha avuto una grandissima fortuna, esattamente, neppure negli Stati Uniti, sfortunatamente per loro e incomprensibilmente per me, ma anche comunque per me. aveva un bellissimo suono. Dei grandissimi musicisti molto talentuosi. Ricordiamo ad esempio che nei Poco ha suonato all'inizio al basso c'era Randy Messner, che poi ha avuto molta più fortuna negli Eagles. È stato fortunato, ha trovato gli Eagles. In ogni poi. Caso, nei Poco, fino al 1974, ha suonato Timmy Schmidt, che poi è diventato il bassista degli Eagles. Sempre loro. Cioè, musicisti straordinari, Jimmy Messina, sì, che certo. Poi ha fondato Loggins e Messina. Famoso disco multiplatino. Che certo. Ai tempi erano veramente dei fuori classe. Cioè esattamente. Super... E però come gruppo non ha avuto una grandissima fortuna. Altri personaggi che hanno fatto parte di questo, visto che stiamo questo parlando progetto terzo, del terzo ospiti, progetto sono in particolare Rick Roberts, l'abbiamo già nominato, oltre che uno dei membri originali dei Flying Burrito Brothers. Rick Roberts ha fondato i Firefall, sono stato uno dei gruppi di rock, in questo caso neanche country rock, più famosi in Stati Uniti, certo, negli anni 70. Esattamente. Un altro personaggio che oltretutto ha suonato con Rick Roberts nei Firefall è Jock Bartley. Jock Bartley ha suonato la chitarra nel PBB 3 in due brani, in Full Circle, la cover di Jean Clark, che esatto, poi sentiremo più avanti. Però una cosa interessante di Jock Bartley è che Jock Bartley ha fatto parte insieme ad Emmylou Harris dei Fallen Angels. È stato il chitarrista di Gram Parsons durante il suo tour del 1973. Ricordiamo che Gram Parsons ha scritto parecchi pezzi per Emmylou Harris. Certo. Era la ragazza di Emmylou Harris. E quindi il fatto di avere avuto con noi Jock Bartley, che ha suonato con Gram Parsons e ha suonato quindi l'assolo nel PBB 3 di Sin City, una canzone di Gram Parsons, ovviamente... Certo. È per noi un grandissimo onore. Li citiamo dopo gli altri. Va bene. Adesso citiamo. Sentiamo la tua musica. Cosa ci fai sentire? Allora, io vi farò sentire, perché inizio sempre i miei concerti con questa canzone, e questa è stata la prima canzone che Romy ha fatto sentire quando io l'ho incontrato. La sua prima canzone. Tratto dal primo disco, praticamente. Tratto dal primo disco, ed è la canzone che dà il titolo al nostro primo disco. Ed è una canzone significativa, oltre per quello che ho già detto, per il fatto che sia io che Ron, tra le cose comuni che abbiamo, è che viviamo tutte e due in una città di confine. Certo. E quindi la città si chiama Border Town. La canzone si chiama Border Town. Io vivo a Varese, al confine con la Svizzera, e Ron vive a Eden, in North Carolina, al confine con la Virginia. Perfetto. E quindi la canzone è Border Town. I was born in a border town, just beyond the line. I grew up in a border town, full of many lives. I was taught in a red preschool. The teacher taught me well. Said if I didn't bend the rules, I wouldn't go to hell. All my life I've been running away, up the land and down. Every time I'd go away, I'd return for the town. Now that I am an older man and I'm looking back, I see that they didn't mean no harm, just trying to cut some slack. I grew up in a Baptist church, the preacher talked to me, said if I didn't do unto others, they wouldn't do that to me. All my life I've been running away, up the land and down. Every time I'd go away, I'd return for the town. Every time you think you've found the answers to the dreams, so the winds of change back to what it seems. I was born in a border town, just beyond the line. I grew up in a border town, full of many lies. All my life I've been running away, up the land and down. Every time I'd go away, I'd return for the town, for the town, for the town. Rock Wave, Rock Wave Live. Eccoci qua, proprio una canzone di confine, no, praticamente. Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente. Una canzone di confine. Noi che siamo gente di confine, gente che sta ai bordi. Abbiamo anche questa cosa che ci unisce. Il testo l'ha scritto Ron? Il testo è scritto da Ron, la musica è scritta da Ron. Io sul disco l'ho arrangiato. Questo è presente sul primo disco, appunto, si chiama Border Town, in due versioni: una versione elettrica che sta all'inizio del CD, e la versione acustica che chiude il CD. Esattamente. E l'hai fatta sentire, la musica l'hai fatta sentire a Ron, oppure è stato fatto assieme contemporaneamente? No, è stato fatto che Ron mi ha fatto ascoltare un po' il lui testo. Come aveva. E io poi a casa ho fatto la cosa, gliel'ho mandata, e poi dopo è stato fatto in un secondo. Però non è, può sembrare una cosa un po' strana, un po' sterile, ma in realtà è molto più immediata e comunque anche ci sentiamo veramente vicini, non è un qualcosa che ci fa, non sentiamo tanto questa lontananza. Tu dici che dal vivo è il primo pezzo che presentate? Sì, di solito sì, è il pezzo con cui iniziamo i nostri concerti, proprio perché è un pezzo molto significativo e che dà già subito un po' un'idea del nostro tipo di musica, e così è un po' una nostra tradizione. Prima o poi, come tutte le cose, probabilmente cambierà. Certo. Però al momento questo è successo anche 6 giugno del 2011, quando il giornalista Paolo Vites, un altro giornalista molto addentro al discorso berziano, ha scritto "Buonasera e welcome to Nashville". Era quello, anche quel giorno là avete iniziato. Anche quel giorno il concerto è iniziato con questo. È un concerto importante perché è stato registrato. È stato un concerto importante, sì, perché è stato il concerto di presentazione ufficiale del nostro secondo album, The Lights of Your Party. È stato svolto a Milano al Teatro Fontana, e in quell'occasione abbiamo registrato tutto il concerto, sia dal punto di vista audio che video, e sono stati realizzati poi un CD audio e un DVD video, che sono in quantità molto limitata ma disponibili ancora in qualche copia. Basta che venite sul nostro sito, poi vi daremo tutte certamente le indicazioni. E che band hai suonato quella sera famosa? Allora, quella sera la band importante era costituita dai nomi che ho detto, sì, prima. Più? E più c'era la presenza di tutti gli ospiti, o di praticamente tutti gli ospiti, che hanno collaborato al nostro secondo album. E quindi c'era tantissima gente. Adesso sono molti, una sono bella amici, riunione. Una bellissima riunione. Era presente Ron, che è venuto per l'occasione dagli Stati Uniti. Ed è stata veramente una bellissima occasione. Avevamo anche altri amici che sono venuti dagli Stati Uniti, dall'Australia. Perché tu hai detto una cosa bella mentre prima di cominciare la trasmissione: una band che si allarga e si restringe a seconda delle esigenze. Sì, sì, perché per mille motivi nessuno di noi può vivere con la musica. Certo, assolutamente no. Tutti noi abbiamo, ci piacerebbe ovviamente, ma è chiaro, diciamo che è piuttosto impossibile. Quindi abbiamo la necessità di mantenere un altro lavoro, e molti di noi sono musicisti, e quindi il lavoro del musicista è comunque un lavoro diciamo che a volte... E perché secondo te in Italia, o soprattutto in Italia, il lavoro del musicista non è capito, non è considerato? È perché loro, cioè molte persone secondo me, pensano che già ci divertiamo suonando, e quindi volete anche guadagnare, visto che tu suoni, già ti diverti, e quindi non è considerato in realtà come dovrebbe. Un vero e proprio lavoro, è un qualche cosa che deve dare una sussistenza, certo, per qualcuno che vuole fare. Oltretutto ci sono molte spese chiaramente per poter fare questo tipo di attività. Sono spese che vanno dalla cura degli strumenti all'acquisto di materiale che serve per le registrazioni, alla produzione dei CD. Sono tutte cose che non vengono regalate, anche se noi ci divertiamo. Assolutamente. E quindi a volte la gente non capisce che per fare queste cose naturalmente c'è necessità di avere un guadagno. Come ti dicevo prima, a me spesso chiedono ma regalami il tuo CD, no? CD. Io lo posso anche regalare, però se io regalo tutti i miei CD naturalmente non riesco poi a recuperare i soldi per poter andare avanti e fare delle cose. Diceva una cosa giustamente Marco, a proposito della chitarra: c'è una chitarra che è stata comprata a pochissimi soldi, l'hai rimessa a posto, l'hai ricreata, gli hai dato un'anima diversa. Certamente, perché una Echo. È una vecchia Echo, questa degli anni 70. Ha un bellissimo suono che abbiamo sentito. Perché erano ancora chitarre fatte con degli ottimi legnami e che quindi con un pochettino di cura possono, e soprattutto nel corso degli anni, questi legnami danno il meglio di sé. Certo. Per cui fan parte un pochettino di quello che noi, forse che siamo un pochettino più vecchi, abbiamo imparato dai nostri genitori, che innanzitutto non si butta via niente, ma che poi è importante avere cura delle cose e tirare fuori dalle cose il meglio. E quindi per me rimetterla in ordine, riportarla a suonare tutto quanto è stato veramente un qualcosa di molto bello. È un po' significativo da questo punto di vista. È in fondo un po' quello che stiamo facendo adesso con la musica degli anni 70, che è un po' come questa chitarra, io credo e forse spero che un pochettino riviva con il nostro modesto intervento, così come questa chitarra rivive dopo essere stata per anni lasciata lì abbandonata. Esattamente, è una bella cosa, secondo me, una cosa molto bella, molto, una cosa che ritorniamo allo spirito di una volta, così, in questo modo. Sì, io penso che non necessariamente tutte le cose nuove siano migliori. No, questo no. Ovviamente non bisogna mai, credo, fermarsi soltanto a uno sterile pensare al passato. Sì, erano sempre tempi più belli, tempi più belli. Assolutamente anche, no, adesso erano tempi duri anche allora. Certo, però, certo. C'erano molte cose buone allora, come ce ne sono anche adesso. Non vedo perché bisogna buttare via le cose buone di un tempo solo alla ricerca di un qualche cosa che deve essere necessariamente nuovo e diverso. E quindi io ho imparato tante cose dai miei genitori, dalle persone. C'era parlavamo anche di tempi molto più lenti nel fare le cose, assolutamente più lenti, e quindi sono adesso cose che c'è molta più fretta, c'è una frenesia totale, per cui si perde tantissimo, si perdono tante cose, e questa non è una cosa buona. E quindi cerco, insomma, in qualche modo di tenere buono alcune cose del passato che secondo me sono molto valide, pur con il progetto vostro è un progetto orientato verso anche il futuro, perché molti pezzi sono scritti da voi, assolutamente, sì, da voi, sì. Questo è importante, fondamentale, secondo sì, me. Sì, assolutamente sì, è stata una scelta fatta fin dall'inizio, cioè nel momento in cui ho dovuto produrre il primo album, che poi è stato prodotto in pochissime copie e all'inizio era pensato soltanto per una distribuzione tra gli amici. Sì. Però la scelta è stata fatta in modo cosciente di non fare cover, riproporre brani o solamente riproporre brani dei nostri gruppi di riferimento, magari rifatti proprio nello stesso modo, ma invece di mettere pezzi nostri, certo con le sonorità e no, con pezzi vostri, però pezzi nostri, esattamente. Sì. E questa cosa è andata avanti per tutti i nostri album, che presentano sì qualche brano di altri autori, ma tanti pezzi esatto. nostri, e anche i brani degli altri autori cerchiamo di riproporre un po' con il nostro gusto, ma sempre con un proprio a livello numerico una sproporzione decisa, certo. verso i nostri brani originali. Segniamo un altro pezzo allora, Marco, dai. Cosa vuoi suonare? Allora, sai che la scaletta si cambia, no, assolutamente, dal vivo si problema. Cambia tutto. Abbiamo parlato di questi gruppi di riferimento, sì. di questi artisti di riferimento. A me piace molto suonare una canzone di uno di questi artisti, che è Roger McGuinn. Mm. Roger McGuinn è membro fondatore dei Byrds, insieme a Gene Clark, a Chris Hillman, a David Crosby, a Mike Clark. Ha scritto questa canzone che si chiama I'm So Restless ed è una canzone che appare sul suo primo album, sul suo primo album da solista. Hey Mr. D, do you want me to be a farmer, a cowhand and old country boy, to get up in the hay, tend out the chores, and leave all my trouble behind the locked door, laying with my lady and strumming on my toy? Oh, I know what you mean and it sounds good to me. Oh, Mr. D, I'm so restless. Hey, Mr. Hell, do you want me to yell, to howl at the moon when I'm losing my grip, without no possessions and finding myself the picture of mental and physical health? I'm still paying dues for that Indian trip. Oh, I know what you mean, and sure rings a bell. Oh, Mr. L, I'm so restless. Hey, Mr. J, do you want me to stray, to be a bad boy, a mean boy, and ready to kill, wriggling and slinking in snakeskin and black, holding my thumb on some chicken in the sack, and never say no if it gives me a thrill? Oh, I know what you mean, and go all the way. Oh, Mr. J, I'm so restless. Radio Veneto. Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, l'onda del rock. Dicevi che questo è tratto dal primo album solista di Roger McGuinn. Sì, il primo album solista di Roger McGuinn. Ti ricordi la copertina del primo album? La solista? Copertina era la sua faccia. Ecco, esattamente, la sua faccia. Con i capelli belli lunghi, boccoli piuttosto chiari. Era giovane allora. Era giovane. Stiamo sì. parlando del 1970. E lui ha preso un po' di tempo dai Byrds e ha voluto fare questo suo album solista. Era una cosa molto comune ai tempi in cui, anche durante le attività normali del gruppo, ma i membri del gruppo uscivano di tanto in tanto con dei lavori solisti. Crosby non poteva farlo, però. Crosby non ha potuto farlo, l'hanno mandato via direttamente. Ma Crosby ha fatto ben poco lavoro solista in realtà, soprattutto ai tempi, anche se quel poco che ha fatto però ha creato un capolavoro, sì, perché If I Could Only Remember My Name. Ma durante il periodo con i Birds, diciamo, è stato un periodo piuttosto conflittuale, sì, un po' difficile. Abbastanza. Ritornando, abbiamo detto che Roger McGee ha fatto questo primo album solista. Perché hai scelto di suonare un pezzo da Roger McGee come solista? Perché ti piace molto Roger McGee? Mi piace molto Roger McGee perché oddio, mi piacciono tutti, sì, quello che hanno fatto i Birds, i originari. Birds. C'è da dire che, ad esempio, mi piace moltissimo Gene Clark, poi ne parleremo. Ma Roger McGuinn è la voce dei Birds. La voce dei Birds, la sua voce è un marchio di fabbrica. E quindi sentire la sua voce e entrare immediatamente in quel suono. In più, è lui che suonava la 12 corde. Quindi l'unione tra 12 corde, acustico ed elettrica, e voce è praticamente il marchio di fabbrica dei Birds. Questo rende tutto ciò che è stato fatto senza Roger McGuinn immediatamente identificabile come un qualcosa che non è in realtà un qualcosa veramente dei Birds. Quindi chiaramente non proprio birdsiano al 100%. Esattamente, l'accezione birdsiana si rifà in particolare a Roger McGuinn, anche se altri ne erano coinvolti. Ad esempio, per le armonie dei Birds, visto che stiamo parlando di questo, sicuramente il maggiore responsabile di tutto ciò è Crosby. Quando Crosby se ne andò dai Birds, le armonie non furono più le stesse, perché Crosby era colui che faceva le armonie nei Birds. Gene Clark raddoppiava la voce solista di Roger McGuinn e le altre armonie erano fatte da Crosby, il che fa capire la qualità e la pesantezza del personaggio, anche dal punto di vista fisico. Certamente, ma poi la qualità delle voci coinvolte, per cui parliamo di Roger McGuinn, Gene Clark, che probabilmente sono tra le migliori voci, e Crosby, che ha una voce incredibile. E io ho visto la qualità globale. Ho visto Crosby e Nash qualche mese fa, più di qualche mese fa, qui a Padova. E le armonie, quando hanno fatto Blackbird dei Beatles, loro due, senza chitarra, cioè solo voce, con la chitarra appena accennata, ma solo voce, siamo rimasti tutti qua. Perché questo è un dono. Crosby ha 70 anni e Graham Nash ne ha 71. Hanno avuto 71. Questo grandissimo dono, mentre gli strumenti, può anche cercare in qualche modo di riprodurre, ma la voce è un dono che o ti è dato o non ti è dato, e c'è poco da fare, ecco. Noi abbiamo la fortuna di avere delle bellissime voci nel nostro gruppo. Ronan, secondo me, è una bellissima voce, non perché canta con me, ma proprio oggettivamente. E poi abbiamo una voce femminile anche. Abbiamo anche delle voci femminili estremamente valide, quindi da questo punto di vista siamo decisamente fortunati. Però quando parliamo di Crosby, di McGuinn, di queste persone, parliamo di fuori classe in senso assoluto. Ma è difficile impastare le voci nella tua band, secondo te? Le voci si impastano in modo naturale, nel senso che o si impastano o non si impastano, quindi è una questione proprio di natura delle voci, e fortunatamente non è molto difficile, bisogna scegliere nel modo giusto. Noi abbiamo ad esempio una cantante solista che non si impasta assolutamente bene nelle armonie, e che quindi non viene utilizzata nelle armonie. Ma ad esempio io non canto praticamente mai voci soliste nel disco, negli album, ma le mie armonie si impastano invece molto bene con quelle di Ron. È proprio una questione di armoniche. Vi siete trovati in ogni caso. O ci si trova o non ci si trova. Certo, in questo caso anche qui purtroppo non c'è un qualche cosa che si può fare. O funziona o non funziona. Come nel caso di Crosby Nash, evidentemente ha funzionato, ma ha funzionato fin dal primo momento. Io ricordo sempre quando loro raccontano del loro primo incontro insieme a Stephen Stills. Nash veniva veniva dagli Hollies ed era un po' in rotta con loro. Sì. Si erano ritrovati a un party a casa di Johnny Mitchell. Sempre lei, sempre Johnny Mitchell, sempre tutte le party. Sempre in mezzo. Si erano ritrovati. Crosby era un transfuga dai Birds, sì, perché stava litigando con loro. Stephen Stills stava sciogliendo i Buffalo Springfield. E Graham Nash veniva dall'Inghilterra dagli Hollies, con i quali. E si sono messi insieme e hanno cantato per la prima volta quel party. Loro raccontano che magicamente, quando hanno messo insieme le tre voci, ne è uscito un qualche cosa che hanno detto: ok, noi dobbiamo fare questa cosa. Sono cose che succedono così. Caso ha voluto ci hanno regalato praticamente le più belle, forse, armonie della musica rock. Ricordiamo che quando Graham Nash se n'è andato degli Hollies, qualche tempo dopo loro hanno pubblicato gli Hollies, mi pare un disco, una raccolta di cover di Bob Dylan ha avuto un grande successo, ma era già andato via. Era già andato via. Assolutamente era già andato via. Però forse ha fatto meglio. Ma sì, e comunque questo era scritto. Era scritto. E ci hanno, in ogni caso, ci hanno appunto lasciato tra le più belle armonie, secondo me, della musica rock. Sono d'accordo. Bene, adesso a proposito di armonie, sentiamo un altro pezzo da disco. Sì. Che traccia hai scelto? Allora, questo brano è un brano scritto da Livingston Taylor. Chi è Livingston? Livingston Taylor è fratello di James. Dell'allora più famoso James, è fratello maggiore di James, in realtà. E Wish I Were a Cowgirl è nata come I Wish You Were a Cowboy, sì, in realtà. Ma dato che questa canzone è stata cantata, ho voluto farla cantare alla nostra cantante solista, che è Catherine Walsick. Allora abbiamo girato il testo appunto al femminile. Una cosa carina è stata che quando ho fatto sapere a Livingston Taylor c'è un aneddoto a proposito. Lui era l'insegnante della canzone. Lui, esatto, intanto ho scoperto che lui aveva insegnato alla Berkeley di Boston a Catherine, aveva insegnato canto. E poi comunque lui è stato estremamente contento del fatto che avessimo deciso di usare la sua canzone, e addirittura mi ha aiutato un po' nel testo per cambiare la cosa. E quindi io sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla sua gentilezza. Io mi aspettavo che magari dicesse no, potete usare questa cosa che state facendo. Invece non ho avuto assolutamente e anche quando ho ascoltato il pezzo finale gli è veramente piaciuto molto. Spero che piaccia anche a voi. Assolutamente, lo sentiamo. Wave Live. Eccoci qua, un po' di bluegrass, cosa dici? Leggermente, sì, qualcosina. Sì, ecco, anche perché è un'altra delle cose. Abbiamo parlato prima delle sonorità del nostro album. Le sonorità del nostro album sono chiaramente molto orientate al country rock degli anni 70, in particolare alla musica dei Byrds, ma non soltanto. Molto presente, ad esempio, musica acustica, anche bluegrass, che proviene quindi dalle zone dei Monti Appalachi, le zone originarie di Ron. È presente musica con sapore irlandese, certo, musica, anche perché, come dicevamo prima, è un po' la musica americana è un melting pot, è un'unione di di persone che arrivavano un po' da tutto il mondo, gli irlandesi, le persone africane di colore, certo, i nativi americani, persone di spagnole e così via, che hanno messo poi insieme tutti questi sapori, per cui ne è uscito alla fine una ricetta o comunque una serie di piatti, diciamo, che hanno all'interno tutti questi sapori e che a seconda del sapore prevalente assumono una diversa caratteristica. Quindi comunque anche nel nostro album sono molto presenti strumenti acustici, il banjo in particolare. Quali suoni? Tu suoni dobro, il mandolino? Sì, il banjo è un po' il mio primo strumento, quello che ho imparato anche forse a suonare meglio fin da ragazzo. E poi a me piace molto la musica bluegrass, la musica acustica americana, e quindi naturalmente è presente nei nostri album. Non tanto in questo album 3, molto di più nel primo e nel secondo, e lo sarà ancora di più nel prossimo, una piccola anteprima, perché è iniziato il progetto 4 in realtà, che poi ci vorrà come le Zeppelin 1, 2, 3, 4 anche te, però non si chiamerà 4, ecco, chiuderemo subito questa storia, che così non... in realtà il titolo c'è già, ma non siamo ancora molto sicuri. Comunque questo album sarà un album molto più acustico e roots rispetto all'album al 3. Ci saranno più un piccolo ritorno alla musica delle origini. Okay. Mentre invece l'altro progetto su cui stiamo già lavorando sarà un album natalizio che uscirà per il prossimo Natale. Ah, bene, benissimo. Ricordiamo che in questo pezzo c'è il violino di Anina Satta. Sì. Poi c'è anche tua figlia che fa l'armonia vocale. Sì, Cecilia si è inserita fin da Border Town, fin dal nostro primo album in questo progetto. Ha una voce molto bella, canta molto bene, e quindi per me è un grandissimo piacere naturalmente ospitarla da noi. Ci aiuta anche molto dal vivo, per cui lei spesso viene a cantare con noi dal vivo, e veramente sono in questo caso un padre piuttosto orgoglioso. Bene, bene, una cosa positiva. C'è anche la Peter Stelgita di Paul Franklin. Sì, qui ci sono stati molti ospiti. Alcuni ospiti sono, diciamo, ospiti e amici. Altri ospiti sono semplicemente dei session men che hanno effettuato delle registrazioni, hanno collaborato in modo piuttosto, diciamo, freddo, tra virgolette, hanno professionale, diciamo. Hanno collaborato. Citiamo gli altri pezzi da 90. Ne abbiamo citati due. Alcuni. Ci manca da citare, ad esempio, Patrick Shanahan. È un batterista che ha suonato in molti gruppi famosi degli anni 60-70, ma in particolare due. Ha suonato nella band di Rick Nelson, che purtroppo ci ha lasciato, che ci ha lasciato troppo giovane, certo. E ha suonato nella band di Rick Nelson insieme appunto a Randy Messner, che avevamo già citato prima, che poi come bassista degli Eagles. E poi ha suonato in particolare nei New Riders of the Purple Sage, grande band, non conosciutissima dalle nostre parti, ma una band estremamente valida, una delle migliori del country rock degli anni 70, anche perché, per chi non lo sapesse, all'inizio, soprattutto i New Riders of the Purple Sage sono nati un pochettino come una branca dei Grateful Dead, e infatti nel primo... una branca un po' country dei Grateful decisamente Dead. Grand e nel country. Primo album infatti c'è la partecipazione in parte anche nel secondo di Jerry Garcia, che suona la pedal steel guitar. Jerry Garcia vuol dire Grateful, esatto. Anche se sono e quindi dopo Spencer Dryden, che ha suonato la batteria nei primi album, poi dopo ha suonato Patrick Shanahan, che è un altro grandissimo personaggio, oltretutto una bravissima persona, una persona veramente eccezionale. Lui vive a Mallorca durante l'anno e ogni tanto ritorna in Colorado, e poi ha i figli che stanno in California, quindi ritorna lì, ma prevalentemente durante l'anno vive in Europa. In Europa praticamente. Suoniamo che cosa col mandolino? Allora, in questo caso io ho preso il banjo, ma non banjo, voglio suonare un banjo, vero e proprio... Non è mandolino, è un banjo. È un banjo. Ma una via di mezzo, nel senso che... questa canzone... Fammi sentire la sonorità del banjo. Perfetto, questo abbiamo sentito tutto. Banjo a 5 corde americano e suonato peraltro anche da Roger McGuinn. Roger McGuinn suonava spesso il banjo, l'ho suonato molto in Sweetheart of the Rodeo, uno dei migliori album dei Byrds. Secondo te come si può sottolineare, definire questo album? L'album seminale del country rock? Cosa dici? Tutti hanno scritto così? Sì e no, direi di no. Direi che non c'era più David Crosby, assolutamente. No, assolutamente, anche perché non avrebbe mai accettato di fare... Assolutamente, non avrebbe assolutamente accettato. Questo qui è un pochettino il risultato appunto dell'ingresso di Graham Parsons nel gruppo. il quale ha portato questa sua passione per il country, ma il country quello tradizionale, il country di Nashville. E diciamo che è stato poi dopo, forse proprio per la notorietà del nome dei Byrds, è stato definito come l'album seminale del country rock, o comunque della fusione tra della musica rock con la musica country. Ma in realtà ci sono molti altri album precedenti che io ritengo molto molto più importanti in questo senso, ce e più uno, significativi, dai. I Dillards. Ah, i Dillards. I Dillards sono sicuramente precedenti e più significativi. Ma non si chiamavano Byrds, hai capito? Certamente. È quello però il motivo. I Dillards hanno fatto questo tipo di sperimentazioni molto prima. Il loro album Mountain Rock è forse stato il primo album che ha inserito la batteria, ad esempio, nella musica country bluegrass. Però i Byrds erano più conosciuti. Certamente. E soprattutto hanno avuto il merito di, così, di andare a... diciamo sollevare molta polvere in una situazione che era piuttosto ferma, nel senso che chi ascoltava country non ascoltava rock, chi ascoltava rock non ascoltava country, i due mondi erano estremamente conflittuali uno con l'altro. Diciamo loro in un certo senso hanno contribuito a fare sì che questi due mondi hanno cominciato insomma a un po' incrinare queste due muraglie che sembravano assolutamente impenetrabili. Però dobbiamo dire, dal punto di vista economico, è stato un flop totale. Dal punto di vista economico è stato assolutamente un flop per colossale. Questo, perché i loro fan rock che erano abituati, non avevano accettato, non hanno accettato per nulla. Assolutamente. E d'altro canto, esatto, loro pensavano di acquistare nuovi fans nella parte del country, invece non fu così. Difatti, furono molto criticati anche, sì, dai DJ di, esatto, allora. Uno in particolare, Ralph Emery, che poi si è meritato pure una canzone che gli hanno scritto, che la mia memoria, che è Klux Driving Man, scritta da Roger McGuinn, proprio per criticare, perché gli aveva criticati moltissimo su questa cosa qua di essere... Però dopo, con il tempo... Con il tempo, certamente. L'ado è stato capito. Qua. Io appunto volevo riproporre una canzone dei Byrds, molto più famosa, da uno degli album precedenti, una canzone che si chiama Mr. Spaceman, che appare anche nel nostro famosissima, album. Famosissima. Con un arrangiamento... Appunto, non è psichedelica quella tua, però. Non è psichedelica, con un arrangiamento effettuato col banjo. Up this morning with light in my eyes, and then realized it was still dark outside. It coming light coming down from the sky, I don't know who or why. Must be those strangers that come every night, whose social ship light put people uptight. Deep green footprints that glow in the dark, I hope they get home alright. Hey, Mr. Spaceman, can't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? This morning I was feeling quite weird. Had flies in my beard, my toothpaste was smeared. Over my windows they read my name, say so long, we'll see you again. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Radio Veneto. Radio Veneto. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua. Io dicevo a Marco mentre la sigla andava. prendere da un pezzo assolutamente psichedelico, Five Dimension, l'album più psichedelico dei Birds, e farlo con il banjo è una cosa rivoluzionaria, possiamo dire così, ma un pochettino sì, però c'è anche da dire che molte di queste canzoni sono nate sicuramente come canzoni così. Roger McGuinn era, appunto, veniva dal folk, da questo tipo di sonorità, e quindi poi dopo gli arrangiamenti sono stati fatti anche per seguire un pochettino quello che era la moda del tempo, e quindi sono stati un pochettino anche arrangiati in quel modo. Ma sono sicuro che questa canzone sarà nata, se non così, ma quasi dalle corde di Roger McGuinn. E dal vivo la fate così? Dal vivo la facciamo a volte così, a volte in versione con Rickenbacker 12 corde. Sul CD e su Border Town appare in versione acustica con il banjo. Bene. In medley con una canzone di Ronald che si chiama The Wampus Cat Song. L'abbiamo fatto un medley, appunto, tra Mr. Spaceman e questa canzone. L'idea della scaletta dei pezzi la fai te e Ron? Oppure... Insieme. Abbiamo di solito una serie di brani su cui lavorare, poi alla fine ci scambiamo le nostre impressioni, ci facciamo alcune proposte, poi alla fine si esce con... Però direi che molto spesso io lascio la decisione questa decisione la lascio più a Ron che non a me, perché io mi occupo già di altre cose, non voglio neanche essere troppo accentratore. Tu ti occupi, diciamo, di tutti gli arrangiamenti. Io mi occupo degli arrangiamenti della parte della produzione musicale. Lui del gruppo scrive i pezzi. Esattamente. Lui scrive molto di più. Assieme a te qualche volta. Insieme a me qualche volta. Adesso ultimamente anch'io ho altri brani che sono scritti, però diciamo che fondamentalmente lui è il songwriter e il cantante solista. Il cantante solista cosa fondamentale in un gruppo, il cantante solista, per cui è proprio la voce più caratteristica e poi il nostro marchio di fabbrica, esattamente, diciamo così. Citando i Birds, lui aveva il marchio di fabbrica, quindi Roger aveva il nostro marchio di fabbrica, esattamente, indubbiamente. Adesso sono le 23 meno qualche secondo, alle 23 esatte c'è un piccolo giochetto che facciamo: i dischi da portare su un'isola deserta, a tuo piacimento, visto che tu ne potresti portare un centinaio, no, ne facciamo solo 5. Benissimo. A tuo piacimento, quello che vuoi. Vai, sì. Allora, non è difficile. Puoi anche fare una piccola colonna sonora mentre ci dischi. Non è molto difficile. Diciamo che il primo disco in assoluto è il disco Cantamos dei Poco. Ah, bello, questo Cantamos. Disco io bello. È il primo che metto nella scaletta. Io l'avevo in vinile, mi ricordo. Perché per tanti motivi, forse non sarà il disco più bello tra quelli che io ho mai ascoltato, ma per mille motivi questo è il primo disco che io mi porterei dietro. Il secondo disco che mi porterei dietro sempre e comunque su un'isola deserta è il primo disco della Nitty Gritty Dirt Band, Uncle Charlie and His Dog Ted. Quello triplo? No, è quello primo, dopo. È il primo ancora, è il primo che hanno fatto dopo il loro periodo di jug band in cui suonavano altre cose. E è il disco in cui c'è il loro vecchio zio Charlie con il cane appoggiato a terra. Comunque questo è un altro disco, è il disco che contiene canzoni come Mr. Bojangles, quella famosissima, House at Pooh Corner e cose del genere. Poi un terzo disco che io porterò sull'isola deserta è Kindling di Jim Parsons. Ah. È sicuramente... Non è conosciutissimo. Non è conosciutissimo, ma è un disco che vi invito ad andare ad ascoltare, a trovare e ad ascoltare, perché per me è una piccola gemma. Naturalmente queste sono alcune scelte personali. Certo, sempre dovrei personali. Portarmi un camion di dischi. Certo. Però dovendone scegliere 5. Poi un altro disco che porterei sull'isola deserta è sicuramente Younger Than Yesterday dei Birds. E quindi cosa possiamo dire di questo disco? Possiamo dire tutto? È uno dei loro migliori. Certamente. In assoluto. Se devo fare una sintesi tra il loro primo periodo e il loro secondo, insomma, questo disco qua per me è veramente, veramente molto, molto, molto bello. E infine, qui la scelta del quinto è un po' difficile. Perché ce ne sono tantissimi. Diciamo che mi porterei un classico, perché comunque un classico bisogna portare. Ho portato i Birds, porterei quindi anche i Beatles, e quindi mi porterei probabilmente Sgt. Pepper's, che è un classico, and his Lonely Hearts Club Band. Benissimo. Salutiamo anche Enzo Mosca, che stasera come si può dire, straordinariamente viene a fare il fotografo, e chiaramente continuiamo a salutare il nostro regista, che qualche volta, per la prima volta nel 2013 è venuto qui. Sì, c'è anche Roberto Badi, assolutamente. Si è ricomposto il duo, hai capito, Michele? Esattamente. Solo per stasera? Non si sa mai. Abbiamo tempo fino alla fine del 2013. Marco, che cosa poi facciamo adesso? Facciamo un altro pezzo dal disco. Cosa facciamo dici? Un altro pezzo dal disco, io direi, e ritorniamo ai nostri pezzi originali. Sì. Perché in effetti abbiamo parlato che noi facciamo tante cose originali, ma vedo che alla fine questa sera stiamo riproponendo, anche perché stiamo facendo un bellissimo discorso, secondo me, che mi sta riportando indietro negli anni. Stiamo così un po' chiacchierando della musica che ci piace, quindi questo mi fa assolutamente piacere. Però in effetti la Piedmont Brothers Band si caratterizza di più per i pezzi originali. Cosa questo è uno adesso? Dei pezzi originali del PVB 3 e si intitola Haunting from the Past. È un pezzo scritto da Ron insieme al suo amico e collaboratore John Carter. Marshall Carter. Esattamente, a cui mi sono aggiunto anch'io scrivendo la parte strumentale centrale del brano. E l'ho scelto perché secondo me questo è il miglior brano dell'album, comprese le cover, comprese le partecipazioni di tutti gli altri, ma questo lo trovo come il miglior album del brano. Per me è un brano che mi mette ogni volta che lo ascolto proprio in un è molto evocativo e mi fa venire sempre un pochettino i brividi alla schiena, proprio perché lo ritengo un brano particolare. Poi c'è anche Catherine che duetta anche qua. Esattamente, nelle armonie è molto molto, è un brano molto bello, ecco, quindi ve lo spero che piaccia anche a voi. Certamente. Through the terrible wrath of winter, we walk through the fallen snow. We watch the semi-lit projections of a winter's night aglow. And it was as if she'd given me warning how the winter months would fly. I do believe I heard her mind speak softly, I'm leaving in July. She had gone. She said it's been sweet these trying years, but yesterday's gone by. But all I could do was cry. Was crying. Rockwave. Rockwave Live. Ok, ci siamo, abbiamo sentito questo pezzo, decisamente, questo è proprio country. È un pezzo molto, sì, country, molto, una ballata. Una ballata, esattamente. Poi mi pare che Ron abbia detto in un'intervista che l'ha scritto assieme al suo amico, cioè che abbiamo citato, di 40 anni circa di età. Sì. All'incirca. Sì, esattamente. E ricordiamo l'SMS che è 346 23 20 033. Salutiamo i tuoi amici americani che sicuramente ci stanno ascoltando. Sì, molti di loro ci saranno ascoltando. In particolare credo che il nostro Mike Gallivan ci ascolterà, e anche probabilmente il buon Ron ci starà ascoltando. Vivian dalla Virginia. La Hi Virginia. Guys and girls, if you are listening, Hi Mike, how are you? I hope you are going very good up down in Vale. And please, all my best wishes to you for the new year, and can't wait to meet you once again. Thank you so much for your support. Thanks Ron, and thank Vivian, and thanks everyone. E niente, comunque sono molto contento, loro sono molto supportivi, ci supportano tantissimo, e sono veramente molto contento. È stata una cosa positiva, dai, questo progetto, questo terzo positiva, album, sì, anche sì, gli altri due. Ho chiaramente acquistato molte altre case in giro per il mondo. Ah, bene. Caso, non farò la fine di un homeless sicuramente. Perfetto. Adesso hai imbracciato la Eco. Sì, perché ci sono alcune canzoni che si potrebbero fare. Possiamo fare una canzone, ad esempio abbiamo parlato della migliore canzone per me del PBB3, e sì, potrei farvi sentire la canzone secondo me migliore del nostro primo album, che è una canzone che ha scritto Ron e si chiama Working on a Battle. È una canzone scritta quando Ron, ci tengo proprio perché anche come è nata la canzone, quando a Eden hanno disegnato su un muro, un murales dedicato al trasporto sul fiume. Eden è attraversata da questo fiume, si chiama Dan, un fiume abbastanza largo, molto, molto tranquillo, proprio adatto al trasporto. Nel momento in cui la popolazione di colore ha acquistato, dopo il periodo della schiavitù, non dimentichiamoci che parliamo del North Carolina, che pur essendo chiamato North Carolina è uno stato del sud degli Stati Uniti, e quindi pur essendo sul progressista la schiavitù, certo, era ben presente, anche perché campi di cotone, campi di tabacco in particolare, di mais, e quindi nel momento in cui le popolazioni di colore hanno riacquistato un po' di libertà, questa è stata la prima attività imprenditoriale che hanno così incominciato, il trasporto sulle chiatte sul fiume. E allora Eden ha voluto ricordare questo avvenimento con questo murales. Quando c'è stato questo, ci sono state un po' di polemiche, naturalmente, chi non pensava che era il caso di fare questa cosa. E Ron ha scritto proprio questa canzone in onore di queste persone, certo, che hanno saputo, appunto, dopo anni di schiavitù, di soggiogazione, certo, però trovare la forza per, così, da loro stessi trovare un modo per ricominciare, per cominciare e per acquisire una consapevolezza certo, maggiore delle proprie. E quindi questa canzone, Lavorare sul battello, è stata scritta appunto da Ron, ed è secondo me una bellissima ballata. Working on a battle from Leakesville by the dam. I'm working on a battle for old man Jeffrey Gain. For old man Jeffrey Gain. There's cotton and tobacco to take to Danville town. Bushels of new taters, molasses sweet and brown. Molasses sweet and brown. Miss Lucy's apple cider and quilts of feather down. To lie on when it's hot and the current all come down. I'm gonna walk all over the town. Find me something pretty for that girl in Licksville town. Pushing on this pool and watching, it gets me off the sand. It's hard work getting home on time to see that girl again, to see that girl again. Working on a battle from Licksville by the Dan. I'm working on a battle for old man Jeffrey Gain, for old man Jeffrey Gain, for old man Jeffrey Gain. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, Rock Wave, l'onda del rock. Ci poteva stare una colorazione anche blues, cosa dici? Ma? Anche, sì, certamente, però io ho voluto rispettare un pochettino quello che era l'idea originale di Ronnie, quindi nell'arrangiamento sono andato abbastanza dietro quello che era un po' il suo feel, quello che ha sentito, che sentito, quel momento. Sentito in quel momento. Benissimo, beh, la versione è stata veramente ottima. Beh, la Echo suona bene, bisogna dirlo. Sì, sì, sì, sì, sta tirando fuori il suo meglio. Poi è una cosa degli anni 70, quindi non può che suonare bene. Quegli anni li facevano le cose per bene. Tu dicevi una cosa interessante mentre stavamo preparando il programma. Hai fatto una specie di attività di ricerca, di ricostruzione anche dei vinili, ecco. Sì, è una cosa molto interessante, adesso la spieghiamo agli ascoltatori. Nel corso degli anni mi sono occupato di tante cose. E una delle cose che... ho fatto e che ancora oggi mi piace fare è andare a restaurare vecchi vinili. Ecco, restaurare, provate a sentire, ascoltatori, restaurare vecchi vinili. Restaurare, che sì, cosa vuol dire, Marco? Nel senso che innanzitutto i dischi vanno curati, per cui ogni tanto vanno puliti, vanno sistemati, proprio per fare in modo che durino nel corso del tempo. E poi anche per salvarne una copia, ho incominciato a digitalizzare molti dischi, partendo soprattutto da quelli che non sono mai stati realizzati su CD, perché che se ne pensi ci sono moltissimi album che non sono per vari motivi, poco interesse, per tanti motivi non sono stati rimessi poi dopo in una versione ufficiale su CD. Certo, io allora, cito un caso italiano, La Luna di Branduardi, non è mai stato stampato in CD, purtroppo. Ecco. E quindi l'unico modo per poter fruire di questa musica è appunto utilizzare i vinili, o anche per comodità, per praticità, anche per poterle in macchina, non potendomi portare il vinile in macchina. Esattamente. Le cassette ormai non si usano più, e quindi per metterlo su CD. Però ho incominciato a fare questo lavoro che poi mi ha portato a restaurare tantissimi album. Quindi dopo una prima fase di trasposizione del materiale audio sull'hard disk, quindi una volta che si ha il materiale digitalizzato, poi ci sono tutta una serie di tecniche, di programmi anche specifici che permettono di ripulire proprio dai vari ronzii, soffi, grattamenti vari. Anche se il disco salta, è incredibile, si riesce lo stesso a creare una copia, diciamo, molto buona. Poi si ritocca appena appena il suono in modo che sia un pochettino magari più pulito rispetto al suono originale. E così ho incominciato a fare anche questo lavoro, lo stesso per le cassette, ho incominciato dalle mie vecchie cassette, e poi anche altri mi hanno mandato il loro materiale. Magari è stato bello, avvincente. Molto, molto, molto, molto. Sono lavori che mi piacciono. Cerca qualche moltissimo. Tesoro nascosto. Tesori nascosti, e poi sono tutte cose che richiedono molto tempo. E qui torniamo al discorso precedente, che siamo troppo abituati con la vita di oggi, negli ultimi anni, sempre di più a correre e a non soffermarci sulle cose. Invece questo ti obbliga a lavorare magari per una settimana su un disco, e quindi in una settimana tu ascolti e lo ascolti profondamente, si scoprono delle cose incredibili, come quando a me è capitato, se posso farvi un piccolo esempio, certo, quando certo, io sono certo. stato a fare il cammino di Santiago qualche anno fa, è la stessa differenza che si ha se uno fa un percorso in macchina o lo fa a piedi. Per fare a piedi 10 km ci vuole una vita, per farli in macchina ci vuole un attimo. Certo. Però io, quei 10 km che si fa a piedi, uno scopre delle cose che non scoprirebbe mai. Si vede il tutto con una velocità e un qualche cosa che è molto più umano, molto più vicino a quello che è la natura dell'uomo rispetto alla velocità con cui non ci si riesce più a soffermare molto sulle cose. Questo è un peccato. E quindi in fondo questo lavoro, come tanti altri lavori artigianali che mi piace fare, tipo anche mettermi a rimettere a posto la chitarra, sono tutte chitarre, cose che bisogna fare con pazienza, con calma, ore, senza fretta. E questo è un po' un riappacificarci con i ritmi, con i tempi che forse ci sono un po' più consoni, che oggi si stanno un po' perdendo. Tutto va molto rapidamente, tutto si brucia in un attimo, subito un'altra cosa, subito un'altra novità, e questo subito non è, un'altra cosa, non, esatto, non è molto buono secondo me. Benissimo, allora adesso, come sempre, rivoluziona la scaletta, facciamo un altro pezzo live. Che cosa fai? Sì, allora, io ho sentito che prima a te piace molto Gene Clark. Esattamente, allora, sì. Poi ne parliamo di Gene Clark. Ascolteremo anche un brano, il brano che poi dà l'inizio a tutto, tutto il nostro disco. Allora, volevo un po' farti ascoltare una canzone di Gene Clark, secondo me molto molto molto bella, che probabilmente sarà in uno dei nostri prossimi album, cantata da Ron. Daytime just make me feel lonely. At night I can only dream about you. Girl, you're on my mind nearly all of the time. It's so hard being here without you. Words in my head keep repeating things that you said when I was with you. And I wonder, is it true? Do you feel the same way too? It's so hard being here without you. Being here without you. Though I know it won't last, I'll see you someday. It seems as though that day will come never. But there's one thing I'll swear, though you're far away, I'll be thinking about you forever. Streets that I walk on depress me. The ones that were happy when I was with you. Still with all the friends I know, and with all the things I do, it's so hard being here without you. Being here without you. Rock Wave Live. Sì, perché mi piace Gene Clark? Perché la melodia berziana è lui. Sì. Gene Clark ha una grandissima voce all'inizio, come dicevamo prima, e comunque è stato così. Roger McGuinn è la voce classica dei Birds, ma in realtà, a parte che Gene Clark raddoppiava tutte le sue voci, ma molte delle canzoni che sono state scritte all'inizio di carriera dei Birds, esatto, sono scritte da Gene Clark, anche se spesso vengono poi co-scritte con McGuinn, ma certo, sono, le melodie sono sue. Particolarmente, che pezzo hai suonato? Allora, questo pezzo si intitola Here Without You ed è un tipico pezzo di Clark, molto malinconico. Avevo questa vena malinconica, Gene Clark, qui senza di te, cioè sempre... ed era un personaggio, anche lui morto in modo abbastanza tragico. Sì, 46 anni, giovanissimo. Molto giovane, molto giovane, devastato un po' dai vizi, dall'alcol, certo, dalla droga, da tutte queste cose qua, in particolare per lui l'alcol, ma proprio perché aveva una vita molto tormentata. E questo tormento dalla sua vita si sente moltissimo nelle sue canzoni, che naturalmente sono molto... colpiscono molto proprio per questa profondità che si coglie. Oltretutto, come al solito, persona estremamente amabile, persona ma con una psicologia molto fragile, e avere così vissuto in quell'ambiente ovviamente non è che gli ha favorito. Esattamente. In più il suo grosso problema è stato che non ha mai accettato il fatto di non riuscire ad ottenere il successo che probabilmente avrebbe meritato. Molti di questi di cui stiamo parlando, neanche negli Stati Uniti, tranne che per un primo piccolo periodo all'inizio della loro carriera, hanno avuto successo, hanno quindi guadagnato molto, e quindi la frustrazione di non riuscire così a sfondare, di dover sempre bussare alle porte per riuscire a fare, è stato per lui probabilmente fatale. Sì, adesso sentiamo allora il pezzo di Full Circle, di James Clark, ma dobbiamo capire, spiegare un momento da dove nasce questo pezzo, un po' contrastato. Allora, la genesi di questo pezzo è molto contrastata. Allora, questo pezzo nasce per un progetto solista di Gene Clark, che, come dicevamo prima, lui per vari motivi è uscito dai Birds, si dice perché dicono avesse paura di volare, ma sì, probabilmente era per ben altri motivi. Comunque, è perché a un certo punto lui si è ritrovato nella necessità di dover crearsi una carriera solista. Quindi questa canzone è nata come canzone iniziale di un suo progetto solista. La canzone è molto bella, Full Circle, il cerchio che si chiude, il cerchio che si parte da un punto e poi si ritorna a quel punto. E alla fine questo suo lavoro solista fu in qualche modo contrastato, non riuscì a trovare, non vide la luce perché non venne riconosciuto sufficientemente valido. Esattamente. È stato stampato poi da una piccola etichetta olandese. Esattamente, sì. L'etichetta Edsel in Olanda, che la ristampò, che lo stampò, e solo molto più tardi vide la luce anche negli Stati Uniti. Questo pezzo però è stato ripreso poi nell'album Reunion, famoso album Reunion, anche questo un album che ebbe scarsissimo successo a dispetto del grande battage pubblicitario che lo precedette. Certo. Però questa canzone, appunto, secondo noi è veramente una canzone estremamente bella, estremamente valida, e quindi l'abbiamo voluta come il brano di apertura del disco nuovo, del nostro disco. La sentiamo adesso. Funny how the circle turns around. First you're up, then you're down again. Though the circle takes what it may give, time around it makes it leave again. Funny how the circle is a wheel and it can spin someone who is afraid. Funny how the circle takes you flying, and if it's right, it brings it back. Though Wave. Rock Wave Live. Sono i Piedmont Brothers Band, non Jane Clark, cari ragazzi, cari ascoltatori. Quindi bisogna sottolineare questo, Marco, c'è poco da fare. La versione è molto bella, però l'avete fatta voi. Sì, sì, sì, sì, l'abbiamo fatta noi. In questo caso io sottolineerei anche la partecipazione alla pedal steel guitar di Alessandro Grisotto. Che è fondamentale. Che in questo pezzo è assolutamente fondamentale. Alessandro, tra l'altro, è uno dei miei, dei musicisti, dei miei amici di più lunga data. Io ho cominciato a suonare con Alessandro nel lontano 1976-1977, abbiamo suonato insieme per tantissimi all'epoca anni. All'epoca del punk praticamente, al 77. Eravamo dei bambini praticamente, ma abbiamo continuato a stare insieme, siamo ancora adesso molti amici, anche Alessandro partecipa alle nostre... Siamo appena stati a Torino insieme, abbiamo fatto delle musica in piazza, una bellissima manifestazione, tra l'altro Correnti di Notte si chiama, in cui molti gruppi si sono... esibiti gratuitamente nelle piazze, nelle strade di Torino. Io e lui da soli acustici siamo stati, quindi Alessandro lo ricordo molto molto volentieri. Poi tu hai citato altre persone, leggendo, scorrendo i crediti della... Anch'io poi magari dimentico dei nomi, me ne scuso con chi ci ascolta che magari mi dimentico, ma non li dimentico nel mio cuore di sicuro. Quello importante. E quindi scusate se non vi ricordo tutti come nomi, ma ci siete tutti. Noi non dimentichiamo di citare il nostro curatore artistico Alberto Prisco, che stasera ti ha voluto qua, che cura tutti i nostri live, lo salutiamo. Io ringrazio tantissimo. Adesso citiamo un pezzo di un musicista straordinario. Sì, assolutamente, non è stato non dimenticato ma lasciato un po' da parte proprio appositamente, proprio perché per me Herb Pedersen, che chi è musicista... Herb Pedersen è un musicista poco conosciuto sicuramente in Italia e anche negli Stati Uniti, ma è molto conosciuto tra gli addetti ai lavori, e un motivo c'è, perché Herb Pedersen è veramente un musicista e una persona straordinaria. È un musicista californiano che ha partecipato praticamente ed è presente in quasi tutti i lavori della musica country rock dagli anni 70 ad oggi. Ha partecipato come ospite nei lavori di Linda Ronstadt, di Emmylou Harris. È stato membro originale dei Dillards, che abbiamo citato, abbiamo citato prima. È stato nei Country Gazette. Ha suonato nella band di John Denver, è stato membro fondatore della Desert Rose Band, un altro band importante per citare, molto molto molto importante negli anni 80. È il responsabile degli arrangiamenti vocali di tutti i gruppi che abbiamo citato, e se John Denver lo ha voluto nella sua band, soprattutto quando già era molto famoso, un motivo ci sarà, perché John Denver a quel tempo era veramente un personaggio di grandissimo livello, e anche quindi con delle potenzialità economiche e finanziarie di un certo tipo. E secondo te come lo puoi definire John Denver, al di là dei pezzi mielosi che qualcuno certo, ha scritto? No, John Denver è intanto una grandissima voce, assolutamente, sì, assolutamente una grandissima, e lui viene proprio da uno di quei gruppi folk che c'erano all'inizio degli anni 60, in cui questi gruppi vocali e strumentali molto tipo i, come si chiamavano, i minstrels, sì, minstrels. E quindi in quel gruppi era fondamentale la voce, quindi grandissima voce, anche una grandissima vena melodica, sì, molte sue canzoni sono assolutamente molto molto belle. Avrei da dire qualche cosa circa gli arrangiamenti e circa l'esagerazione di questa vena melodica, forse un po' troppo mielosa, sì, appunto, come dicevi te. Però assolutamente un personaggio da rivalutare. Certo. Togliendogli un pochettino di questo miele, io credo che moltissimi dei suoi lavori sono assolutamente validi. Come sempre, purtroppo, solo alcune cose passano da noi, per cui, ad esempio, qui da noi uno parla di John Denver e tutti parlano di Take Me Home Country Road, che onestamente non è assolutamente tra le sue cose migliori. Lui ha scritto anche Living Jacket Lane. Ha scritto molte altre cose molto più belle, molto più valide. Tra l'altro basta ascoltare alcune versioni di queste canzoni fatte da altri artisti che le hanno un po' liberate da questo aspetto mielose. Sono canzoni, ad esempio, tu citavi Living on a Jet Plane, una cosa meravigliosa. La versione di Peter, Paul & Mary, per esempio, per me vale assolutamente la pena di essere ascoltata e riascoltata molte volte. Quindi io ho una grandissima stima di John Denver, perché pur appunto avendo rappresentato per noi un po' questo aspetto un po' sdolcinato della musica country, ma è poi un personaggio probabilmente molto autentico, molto attento anche ad aspetti della vita quali la natura, sì, queste cose che lo rendono, anche lui ha vissuto in Colorado per, e quindi è devo dire che mi è spiaciuto molto quando ha avuto quel terribile incidente, sì, che quindi sì, ce l'ha tolto. Anche se è morto facendo una delle cose, ecco, una delle morti che penso che tutti vorrebbero, o meno che io mi auguro, è di morire mentre faccio una cosa che mi piace. Comunque è morto mentre faceva una cosa che gli piaceva, era la sua passione, volare. Quindi, vabbè. Allora sentiamo questo pezzo di Herb. Herb Pedersen, Wait a Minute. Wait a minute, did I hear you say you're going far away again? Try to change it, I can't take the lonely nights without your love. Doing the road, get the music down and move along. What good does this do? Play your songs for her and hear her sing. Wait a minute, did I hear you say you're going far away again? Try to change it, I can't take the lonely nights without your love. You're rolling along, life's been good to you, and even so, she comes to you late nights, the time you hear her say. Once again, wait a minute, did I hear you say you're going far away again? Try to change it, I can't take the lonely nights without your love. Wait a minute, did I hear you say you're going far away again? Try to change it, I can't take the lonely nights without your love. Oh. Rockwave. Rockwave Live. Eccoci qua, sarà contento Herb quando l'ha sentita? Sì, molto molto, poi Herb veramente, io quando abbiamo incominciato, ma questo già da anni, molto prima di questo, è da un po' che siamo in contatto. In collaborazione. In collaborazione, è una bravissima persona, è veramente un molto umile, un personaggio straordinario. Uno che ha suonato con tutto, sì, con esatto, tutti. No, partiti. No, è veramente una... Jeff Porcaro della musica country. È veramente il prezzemolo della musica, musica. Di questo tipo di musica, assolutamente sì. È quello che dà quel sapore particolare. È nascosto lì dietro, ma c'è. È nascosto lì dietro, ma c'è. Bello. C'è. Dunque, adesso sono le 23:38, abbiamo circa 20 minuti, abbiamo ancora tempo per suonare ancora, però io vorrei far sentire agli ascoltatori quel pezzo che abbiamo deciso in scaletta all'inizio, verso le 10, sai, quel pezzo inedito che non è presente nel disco. Sì, ci sono, oltre ai progetti di cui vi ho parlato all'inizio, e quindi questo lavoro sul Natale, il cosiddetto PBB4. Quando uscirà il lavoro sul Natale? Natale uscirà, 13. Penso, per novembre del prossimo anno. Posso sapere che scaletta o solo una cosa segreta? Non è ancora sicuro, ma però posso dire che assolutamente seguirà lo stesso schema dei nostri altri album, e cioè saranno parecchie canzoni nostre ispirate dal Natale, più che una riproposizione di canzoni classiche. Ci sarà naturalmente qualche canzone un po' più conosciuta, ma cercheremo di non essere totalmente ovvi, anche se è piuttosto difficile, ma però vorremmo dare un po' un nostro piccolo contributo, quindi alla riflessione sul Natale con nostri brani. Noi ci proponiamo, perché noi festeggiamo il Natale musicalmente parlando qui a Rockwave o Radio Sera, pardon, Blue Time Live, sempre proponendo delle canzoni natalizie non prettamente classiche. Bene. Già 3 anni che lo facciamo, ci possiamo proporre con te allora? Sì, assolutamente, vi farò avere, ecco, esattamente, ci terremo in contatto e vi farò avere il perché materiale. È un progetto che mi interessa molto. Sì, diciamo che ci sono già molte idee, alcune sono già anche scritte, bisogna però un po' arrangiare, quindi comunque ci saranno nostri lavori originali, oltre a qualche cosa di forse non così ovvio, e poi qualche cosa che ci ricordi, ovviamente suono Piedmont, quindi certo, assolutamente suono Piedmont, cosa ci sarà. E ritorniamo al pezzo inedito. Da dove è tratto questo pezzo? Sì, allora, questo, come dicevamo, adesso faremo sentire fra qualche secondo. Ci sono due o tre brani che usciranno su varie compilation in questo periodo. Uno in particolare è questo Summer Wind, che uscirà a breve, è finita la produzione proprio in questi giorni, in una compilation che si chiama Wood in Stock, di cui vorrei spendere due parole, se mi concedi. Spendiamo. È un progetto veramente molto interessante in cui sono rimasto coinvolto, organizzato da un ragazzo straordinario insieme ad altri, ma in particolare da questo ragazzo straordinario che si chiama Luca Guenna, che di straordinario ha che è un malato di Parkinson. È molto giovane, è un malato di Parkinson, ma quando ha scoperto questa cosa, dopo un primo momento ovviamente di grandissima depressione, questa cosa non soltanto lo ha spronato a dare il meglio di se stesso, ma proprio gli ha tirati fuori da lui delle qualità insospettate, insospettabili, per cui si è reso protagonista di questo progetto, Wood in Stock, legna in stock vorrebbe dire, che si rifà non soltanto al Woodstock famoso, ma che vuol prendere un po' quello spirito, che è quello di mettere insieme la gente per suonare, con un approccio molto libero, un approccio molto gratuito, il tutto appunto con la finalità di raccogliere fondi per lo studio per lo studio del Parkinson. All'interno di questo progetto abbiamo organizzato, io sono appunto diventato suo amico, cerco di collaborare per quello che posso in questa attività, e oltre a un festival che abbiamo organizzato nel mese di settembre, ci sarà appunto un CD che uscirà a giorni, che raccoglie tutti coloro che hanno partecipato come musicisti. Ci sono musicisti molto importanti del calibro di Andrea Braido, di Gigi Cifarelli, di Arianna Antinori e così via. Ci sono tanti artisti di grande spessore, e anche noi abbiamo partecipato con questo brano inedito appunto, che si intitola Summer Wind. È una cover di una canzone della Desert Rose Band, scritta da Chris Hillman e Steve Hill, cantata da Ron Martin, e questo non apparirà su altri album, quindi se vorrete ascoltare questo brano potete cercare su internet, basta che digitate Woodstock, anche su Facebook, e troverete tutte le indicazioni per... Comunque ci sarà anche sul nostro sito della Piedmont un'indicazione per acquistare, e quindi oltre che sentire della buona musica, fare anche un'opera estremamente, certo, importante di bene. Ok. Exercise with by the window. She wakes, she hears the wind blow. Taking all she has and she knows it's a cold summer wind. No, it's not the first time. Her heart feels like the last time. A never-ending mad rhyme, like a cold summer wind. What I've been through, all I've done for you. Can't you see your world won't end? It's just a summer wind. Dad is once a weaker, the only one in my world. Coming back again. Yeah, your mom and I, we both know. Every day you live, we all grow. Only God can make the wind blow like a warm summer wind. Can't you see what I've been through? Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, l'onda del rock. Sì, sì, ma sta provando. Sta provando, esattamente. È tutto dal vivo, è tutto live, 23:46. Adesso citiamo. Dove si può trovare il tuo disco? I vostri, allora, dischi? Sì. Il modo più semplice per avere accesso alla nostra musica è Piedmont Brothers Terzo. Piedmont Brothers Band, il nostro sito. www.piedmontbrothersband.com. Questo è Piedmont, si scrive Piedmont. Piedmontbrothersband.com. Basta andare su Google, su qualunque motore di ricerca, e fare comunque scrivere Piedmont Brothers e arrivate diretti al nostro sito. Da lì c'è tutta la parte del nostro sito in cui si possono acquistare i nostri CD, sia in forma di download, si potete scaricare nei vari formati, che l'acquisto fisico, si può pagare con carta di credito e poi il CD vi verrà spedito. Questo vale per Italia, per tutto il mondo. Un altro modo per avere i nostri CD è di andare in un negozio qualunque di dischi, che è una bellissima idea, quindi per noi, diciamo, è meno, noi guadagniamo di meno, perché io guadagno di più se voi me lo acquistate sul sito, detto tra di noi. Ma però vi suggerisco e vi consiglio di andare a fare un bel giro in un negozio di musica, perché è un'esperienza molto bella. Andate nei negozi di dischi, stateci, parlate con il proprietario, soprattutto in quei bei negozi dove ci sono ancora i dischi in vinile, andate, state lì, toccateli, guardateli, chiedete. Questa è un'esperienza che dovete fare tutti, quindi vi consiglio di andare in questo negozio dove potreste trovarlo già in negozio il nostro disco, o se no chiedete gentilmente al proprietario, perché i nostri dischi sono distribuiti dalla IRD International, che quindi li può, sono distribuiti in tutta Italia, in tutti i negozi, quindi vi verranno poi fatti avere nel brevissimo tempo. Quindi andate nei negozi di dischi. Quindi il messaggio è andate nei negozi di dischi, perché fate un favore a voi stessi, fate un favore al povero gestore del negozio, che sennò deve chiudere e quindi si perde una ricchezza, tutti perdiamo qualche cosa, e poi fate un favore anche a me, appunto, perché naturalmente sostenete il nostro progetto. Infine, naturalmente, si trovano anche su iTunes, Amazon e tutti i più importanti gestori di distribuzione di musica digitale. Adesso, visto che abbiamo poco tempo, citiamo i pezzi che per motivi proprio di spazio non possiamo citare. La suite, The Highlander Suite. Sì. Che cos'è la suite? Una suite da 10 minuti e 12. Sì, la suite abbiamo unito alcuni brani che erano all'inizio naturalmente separati, e che sono partiti un pochettino da un brano di Ron che si intitolava The Highlander Free, una ballata basata un po' così sul fatto che lui voleva ricordare in quella ballata le sue origini irlandesi. Io avevo pronto un brano strumentale intitolato November Rain, che ho voluto dedicare al mio amico inglese, che forse vi ricorderete ho citato all'inizio della trasmissione come il mio socio nel sito web dedicato alle liriche dei Birds. E allora era una serata di novembre molto piovosa, e allora a pensare a questo mio amico inglese che vive a Colchester in Inghilterra, anche lì piovosissimo e tutto, io ho questa immagine un po' così, e allora ho dedicato a lui questo brano. Infine era da poco che avevo comperato un Dulcimer, mi ha costruito un bravissimo liutaio sui Monti Appalacchi, e quindi avevo da poco questo strumento e ho sviluppato un piccolo strumentale che quindi va a completare questa suite. I tre pezzi si incastravano molto bene insieme, e quindi nonostante la lunghezza, che è certamente poco radiofonica e poco commerciale, ma abbiamo deciso di portarla. Questa è una suite che è con un chiaro arrangiamento molto irlandese, proprio perché la musica irlandese mi piace molto, e sono fermamente convinto che la musica irlandese ha condizionato tantissimo e ha influito tantissimo anche nella musica americana, quella che noi adesso definiamo come musica americana, perché gli irlandesi erano una comunità molto molto presente, soprattutto nella zona dei Monti Appalachi a cui noi facciamo riferimento. Anche se però la suite è molto contaminata. La suite è molto contaminata. Non solo di musica irlandese, ma... No, certo, la suite è molto contaminata. Soprattutto il primo pezzo definirei molto Steely Eyes Pen, per chi di voi conosce questo gruppo. Straordinario. Una vocalista straordinaria. E quindi lo definirei un arrangiamento vagamente folk rock inglese. Il secondo è una ballata invece assolutamente con del sapore irlandese, ma con la presenza della dobro, ad esempio, che già la fa. Infine, la terza è proprio un classico brano delle colline degli Appalacchi, e quindi è un po' un brano di old time music, con il dulcimer e il banjo suonato in stile frailing. Dulcimer mi ricorda la Transatlantic Record, quindi i Pentangle, sì, certo. Quindi l'epopea del folk inglese. Però il dulcimer è uno degli strumenti ancora che viene maggiormente ed è stato maggiormente utilizzato appunto nei Monti Appalachi. Certo. Molta della musica dei Monti Appalachi è stata fatta, e ancora oggi c'è addirittura un festival dedicato al dulcimer, proprio perché è stato portato lì naturalmente dagli europei. Che ci sono molti strumenti che poi sono diventati tradizionali americani, ma che vengono da tutt'altre parti. Certo. Naturalmente potrei citare l'auto harp, che è stata inventata da un tedesco, Oscar Smith. Il banjo stesso è comunque uno strumento di origine africana, di certo non è uno strumento dei nativi americani. Allora, adesso abbiamo circa 8 minuti, io ti proporrei un pezzo subito dal vivo, che cosa? E poi sì, salutiamo. Potrei fare, visto che ho in mano il banjo, un piccolo medley di alcuni dei nostri brani che proponiamo e che fanno parte così di strumentali che fanno parte dei nostri album, partendo da un brano che io dedico sempre al mio cane Buddy, che in questo momento starà piangendo aspettando che il suo padrone torni, che si chiama Buddy Stomp. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Rock Wave. Rock Wave Live. Ci siamo. Abbiamo finito questa cavalcata. Benissimo, è stata una cavalcata meravigliosa. L'abbiamo quasi finita con il banjo, adesso la finiamo con la chitarra, chiaramente. Grazie a Marco Zanzi e la Piedmont Brothers Band. È stata una piacevolissima cavalcata di due ore secche di musica. No, grazie, di musica, veramente. Grazie, di musica a voi, è stato un grandissimo piacere, veramente vi ringrazio tantissimo, ringrazio Blu Radio Veneto che ci ha ospitato, ringrazio te Maurizio, ringrazio Alberto per il suo invito. Sono veramente molto contento, grazie del vostro supporto, è molto importante per noi. Ci rivedremo al prossimo disco allora. Certo, e ci rivedremo allora a Natale. Certamente, certamente. Molto bene. Grazie. Perfetto. A Michele, che è il nostro regista, praticamente, che ci ha dato una mano fondamentale, e grazie a Renzo, che certo, stasera è stato il nostro fotografo. Benissimo, grazie a tutti. Con cosa finiamo? Finirei stasera con un pezzo sempre dell'album PBB3, il pezzo che ha visto la presenza di Richie Furay e Art Pedersen nel loro duetto. Un pezzo di Birds. Una canzone classica dei Birds, I Like the Christian Life. Grazie e buonanotte a tutti. My buddies tell me I should have waited. They say I'm missing a whole world of fun, but I still love them and I sing with pride. I like the Christian life. I won't lose a friend by heeding God's call, for what is a friend who'd want you to fall? Others find pleasure in things I despise. I like the Christian life. My body's shown me, since I turned to Jesus, that I am happy, though it burdens my soul. And I'll try to lead them to walk in the night. I like the Christian life. I won't lose a friend by heeding God's call, for what is a friend who'd want you to fall? Others find pleasure in things I despise. I like the Christian life. I like the Christian life. Rock Wave. Rock Wave Live.